headlights are on. Fortuna ha voluto che il cosiddetto compagno automatico ci ha deliziato con luglio, agosto, settembre nero degli Aria, un vero e proprio pezzo di storia del 1973, drammaticamente attuale. Ed è finita puntualmente alle ore 21 quella traccia così meravigliosa. La bella voce di Demetrio Stratos. Arbeit McFry è un album punto del 1973. Questa invece è prove tecniche di trasmissione da adesso sino alle 22:30, allorché poi ci sarà 25 o'clock. Il sito già molto frequentato è www.ondarossa.info. Nel sito ci sono le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione e la vita di questa radio da sempre autogestita. E prima di iniziare le danze, i consueti saluti, cominciando con Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria. Abbiamo a Cortina d'Ampezzo Tabula Rasa, Anna qui a Roma. La fedelissima Venusia Zozzetta Stramonio. Venusia ci sta ascoltando dalle Marche. Un saluto a Mirko Parrello, Ernesti Panico Brusati di Panico da Palcoscenico, Sara Boy a Berlino, Jean-Claude Berthaud in trasferta a Torino. In genere ci sente da un piccolo paese della Val d'Aosta. Nicola Locci, Stigmate Hexagonal. Un saluto a Simone Scalese di Audio Chaos, che suoneranno a Roma venerdì prossimo. Luca Purumni Hill, Alessandra da Mentana, un saluto a Laura Spirit Crusher, a Giulia Vassena qui a Roma. Il fedelissimo Antonio Zoviet di Omicidio, che ci ricorda giustamente la recente commemorazione della morte di Frick Antoni, che avrebbe compiuto, se non erro, 70 anni il 12 febbraio. Progetto sonoro di Marco Mascia. Abbiamo Maralasi di Calitis, che ci siamo gustati in parecchi disorder. Invece noi abbiamo ritirato fuori, dopo tanti tanti anni, intanto saluto anche Francesco Cornello, una compilation che uscì nel 1993 grazie alla Slaughter Production, l'etichetta dell'indimenticabile Marco Corbelli. Questa compilation si chiama From Sickness to Death e peraltro in essa è contenuta anche una traccia proprio di Cupio Dissolvi, che prima o poi ci ascolteremo. E mentre cominciamo a conoscerla con una lunga traccia che saremmo costretti a dividere in due parti ad opera degli svedesi Megaptera, e la traccia si chiama Deep Inside. siamo tornati molto indietro nel tempo, a circa 30 anni fa, e lo abbiamo fatto sfruttando questa compilation della Slaughter Production di Marco Corbelli dal nome From Sickness to Death, dove erano presenti artisti italiani ed esteri. Questi Megaptera con Deep Inside, una lunga traccia di 18 minuti. Ci siamo ascoltati la prima parte questa sera, e poi Rise on Detre, The Son Satan, lo stesso Atrax Morgue, Runes Order, Aulio Die, Geistein, eccetera, eccetera, lo stesso Cupio di Solvi, Teatro Satanico. Una compilation che dunque ci terrà compagnia per qualche settimana. La siderale ambient di Megaptera, della tradizione svedese, lui è Peter Nyström. Una tradizione che è stata molto florida, soprattutto qualche anno fa, al pari anche della nostra, compreso il death ambient e tutte le varie derivazioni del genere. Compreso il retrogusto gotico, ovviamente, che sta arrivando in questa ideale seconda parte che ci ascolteremo la prossima settimana. E torniamo ai giorni nostri, andiamo in casa di Raffaele Pezzella. Raffaele Pezzella ha iniziato con la Nespresso Sounds Group, ma pian pianino ha poi aperto anche altre realtà parallele, comprese questa Reverse Alignment, una esperienza svedese rilevata dallo stesso Raffaele Pezzella, che già ci ha regalato diverse produzioni, comprese questa The Night Glow, The Night Glows dello slovacco Kelados, Matus Fabian. Ebbene, ci ascoltiamo l'Untitled 3 e 4. fascino ferale e ultra criptico di Kelados, da questo Night Glows, una delle tante opere del catalogo Reverse Alignment del 2023. Lui è Matus Fabian, slovacco. Siamo al limite dell'isolazionismo vero e proprio, sfruttando una chitarra elettrica analogica e modulare, microfoni a contatto, registrazione sul campo, un strumento dal nome strambo, ma tant'è, dal nome idrofono. E tra le tante recensioni che si possono trovare sul profilo Bandcamp, un paio di definizioni che ci piacciono, ma soprattutto questa: album ok, minimalista, ma soprattutto è uno di quegli album che è semplicemente un luogo di introspezione per perdersi quando si è lontani dalle cose e rilassarsi. The Night Glows, Kelados, lo lasciamo e ci spostiamo invece in un ambito più ritualistico, sacrale, quasi iniziatico, appartenente alla porta ermetica, e quindi arriviamo in Italia. Tre giganti della scena sperimentale italiana, Claudio Giammarino di Ainsoff e Malato, Lunus Davis di Teatro Satanico, Adriano Vincenti di tantissimi progetti, tra cui la Porta Ermetica, La Mare e tanti altri, ed insieme appunto hanno fatto questo Si Sedes Non Is, questa sera vado a proporvi due tracce, Sane Occultism, Sane Occultism, e la terza traccia dal nome Vitriol. Our hope that it may keep us guidance and protection on the path, and we affiliate ourselves thereto with ritual in order that we may become partakers of an ancient Eastern tradition. This tradition is of very great value, but it is not indispensable, and while it is in the power of all orders to employ it, it is not the power to withhold it. For it is possible for the seeker to rise in consciousness to the temple, not filled with hands, and there to receive initiation right out of the body. Such an achievement is rare, and the training accomplishment afforded by working fraternity are of the greatest value to students. Each occult school has its own ideas, its own methods, its own aims, and, to say, its own drawbacks and limitations. Human institutions, like that of beings, are finite and imperfect. But its temple bring our ideas, and according to the consonance between what we bring with us and what we find there, will be the heart, or otherwise, of our relations with that organization. If our ideas be not sufficient or lofty, we shall learn by neither experience what are the consequences of operatives pursued by wrong means. If our own ideas be loftier than those of the organization with which we have allied ourselves, our intuitions are truly guiding our teaching, we shall soon find that the way opens up for us from the inner place, as we may give ourselves the conditions that entitle us to our advancement. L'enorme espressività e solennità di La Porta Ermetica, questo mega progetto che esordisce sulla lunga distanza con questo CD dal nome Sidedes Nonis, che ci ha rimandato indietro soprattutto presso i primissimi Current 93 di David Tibet. Come dice giustamente Like Awake, che vado a salutare, un esoterismo sapientemente strutturato, tutto al posto giusto. Ma d'altronde i tre calibri fondatori del progetto, Claudio Giammarini, Davis Granziere, Adriano Vincenti, sono ormai delle vecchie volpi della scena sperimentale italiana. Ottimi collaboratori, Elisa Panbianchi, qui col nome Tecla Nives, nelle parti femminili e canto soprano in varie tracce. Abbiamo i Capricorni Pneumatici, un altro pezzo di storia, e poi anche Pierluigi Ferro e Cosa e Sforza, che vanno a suonare il sax in certi passaggi dell'album. Saluto anche Marcello Buffetti di Monum, che ci ha tenuto compagnia in Disorder per molte settimane. Abbiamo anche Barbara Caridi, attrice e artista a 360 gradi. E adesso ci gingilliamo un po' con il sinfonico marziale dei Laibach, che hanno fatto uscire quest'anno tanti album, tra cui questo Iron Sky The Coming Race, un proseguimento della prima parte di Iron Sky, un'altra pellicola uscita qualche anno fa. E sappiamo la perizia e la classe dei Laibach quando devono applicarsi anche nel campo delle colonne sonore. E le scorse settimane ci siamo ascoltati molti, molti brani, perché sono state delle tracce molto corte. Invece questa sera ci andiamo a ascoltare soltanto due brani tra i più lunghi, tra virgolette, dell'album, ossia il Wolfgang Flashback e Map Overgard. il trasporto lirico, il mood neosinfonico che caratterizza molta dell'arte di Laibach. Ricordiamo Laibach, che è il vecchio nome di Ljubljana in, diciamo, vecchio idioma asburgico, un'attività che ormai va avanti da lontano 1980 con i loro primissimi concerti puntualmente interrotti dalla polizia jugoslava dell'epoca. In tutti questi lunghi anni hanno alternato industrial, elettronica, addirittura hard rock, per esempio in Jesus Christ Superstar. Gruppo dunque dalle mille risorse, e qui dunque si sono dati alla colonna sonora di questo film di Iron Sky, The Coming Race, con la collaborazione, non so se in veste di compositore o quant'altro, di tal misteriosissimo Tuomas Kantelinen. Inizieranno una tournée e verranno anche in Italia in aprile, in questa cosa che bisogna capire bene cosa sarà. So che è un'opera teatrale di Bertolt Brecht, bisogna capire se i Laibach faranno una sorta di sonorizzazione live oppure meno, o addirittura reciteranno. È un mistero che ancora non si dipana, che non si chiarisce anche presso, diciamo, i siti di riferimento, per esempio il Teatro Alighieri in quel di Ravenna, perché di Ravenna stiamo parlando, ma anche di Bologna. Questo intorno al 20 aprile. Risaluto Simone Scalise e Nicola Locci e noi andiamo avanti tornando in Italia. Intanto già sono le 21:50. 21:52 per la precisione. Queste prove tecniche di trasmissione su Radio Onda Rossa. Oggi è il 14 febbraio del 2024. Andiamo avanti tornando in Italia, andando dalla etichetta di Nicola Quiriconi, ossia la Dissipazio, che ci regala sempre delle chicche interessantissime. E una delle ultime appartiene ai Mauroro e si chiama Empires. Ci inoltriamo in territori più elettroacustici, dove l'elemento percussivo, il canglore industriale, ma anche la chitarra trattata saranno elementi portanti e protagonisti di questo album. Allora, ci ascoltiamo a Papoteco Larynx e Vestibular System.